Sono già le 9, perderemo l'aereo. Travels check, passaporti. Ce li hai i biglietti, tesoro? Tabitha, hai dato da mangiare a Roddy? Ops. Lo so che dimentichiamo qualcosa. Roddy, dove sei? Noi torniamo fra qualche giorno, ti lascio croccantini a sufficienza. Un altro po'. Tabitha! Un altro po'. Non lo rimpicciare troppo. Ma certo che no, mamma. Andiamo, Tabitha. Ciao, Roddy. Non vogliamo perderci la vacanza. Arrivo. Quando il gatto non c'è? Quando il gatto non c'è, i topi ballano! Comincia la vacanza, ragazzi! Musica, maestro! Ehi, perché state tutti lì impalati? Ho un programma sensazionale per oggi! Muoversi, gente! Hop, hop! No. Allacciate le cinture. Oops, scusate. Gol fatto. Match point. Servizio. Abbiamo vinto, amici. Abbiamo vinto. Spiaggia fatto. Prima cinematografica. Meno male. Il mio preferito si muore solo due volte. Ti stai divertendo, bambola? Grazie. Ci vediamo domani. Buonanotte. Sì, perfetto. Buonanotte, Roddy. Che cosa è stato? Chi va là? Andiamo, sveglia! Credo che ci sia qualcuno in casa. Sergente, sveglia! Ci avviciniamo alle linee nemiche. Io sono armato e pronto. Riposa, soldato. Consegna le tue armi di distruzione di massa. Vieni a prendermi. Smetti. Silenzio! Sono armato. Zitto. E pronto. Silenzio! Dì alla mamma che le voglio bene. Ripeto, non esiste cibo così nelle fogne. Un topo di fogna? Come sei arrivato qui? Che ne so io? Ah! Un attimo prima ero in un pub e un attimo dopo scoppia una conduttura e mi ritrovo a schizzare su per il tubo. E beh, eccomi qua. Ciao, ho uno sturo alla bandini, ti rispettiamo indietro. incidente in galleria. Posso chiamarti un taxi? Ah, in galleria, l'hai capita? Ce l'hai la TV? Sì. Non dire altro. Geronimo! No, toccare niente. Ma tu guarda quanto è grosso questo mostro. Attento, bello. Quelli non sono bottoni di cioccolata. È la partita del secolo. La finale. La finale della Coppa del Mondo. Inghilterra, sì. Germania. In diretta domenica prossima. State con questo noi. Questo posto è da paura. Io rimango qui per sempre. Cosa? Match point, servizio. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Tu hai perso. Alla faccia tua. Senti, amico mio, tu qui sei fuori posto. Temo sia ora di togliere il disturbo. Io non lo farei se fossi in te, bello. Ti spiego come stanno le cose. Ora questo posto è mio. Sid dice salta e tu rispondi quanto signore. Ehi, comprende? Ora vammi a prendere qualche torta in cucina, Battista. Oh, e vedi di trottare. Sì, signore. Subito, signore. Cominciamo a capirci. Ma... prima di servire la colazione, forse sua signoria gradisce una frullata nella jacuzzi. Nella jacuzzi? Mm-hmm. Sai cosa sei? Sei un vero gentiluomo. Beh, dopo una dura giornata di navigazione nelle fognature, non c'è niente di meglio che rilassarsi in un bel bagno con idromassaggio jacuzzi. Sembra proprio super invitante. Oh sì, sì, l'acqua è perfetta. Ora tu... salti dentro e io abbasso la leva per far partire le bolle. Chiaro, salto in acqua! Aspetta. Lo so che prima siamo partiti col piede sbagliato, ma io credo che fra di noi andrà tutto liscio. Tu no? Una nuotata di salute. Ci vediamo, amico mio. Che papeo! Pensi che non sappia neanche riconoscere un gabinetto? Tu volevi scaricarmi l'eccesso! È una jacuzzi gigante a modello estralusso! Allora non ti dispiace se faccio partire le bolle, non è vero? Lo leverò! Di pietà, non so nuotare! Buon viaggio, vecchio biscotto rinsecchito! Tappati il naso! Puoi farlo! Volevi scaricare me nello sciacquone, vediamo se a te piace! Hai visto mio padre? No! Sono nelle foglie. No! Per favore! No! No! C'è nessuno? Nessuno. Aiuto. Ora apro gli occhi e sono a casa mia. È tutto un incubo. Ah, non sono a casa, voglio andare... Smettila, Roddy! Smettila, voglio andare a casa, ricomponiti adesso. No, non ce la faccio, sono solo spaventato. La vuoi smettere? Basta! Roddy, vecchio mio, tu puoi uscire da questo guaio. E ne uscirai. Non dimenticare che il sangue del prode clan dei St. James scorre nelle tue vene. Ah! Una via d'uscita! Sì! Ci mi sa di segnarlo. Sono davvero desolato. Io mi schino stamattina a Fenile, l'ho già vista dall'alto. Santo, pazienza. Cos'è questo posto? Fermate l'autobus. Mangime per le mosche, due penne a sacchetto. Foga. È una vera città. La mia biancheria. È un uccello. È un aeroplano. È uno con le mie mutande. Fallo muovere, baby. Ehi, hai la faccia come un vecchio pendolone. Forza, sweetheart. Mi sa che non parla la nostra lingua. Oh, God, si è mosso. L'hai preso? Presa. Bravo. No, mi scusi. Oh. Sto arrivando! Cosa? Dove? Chi? La grande inondazione! Quelle chiuse non reggeranno per sempre, capito? Siamo sfacciati! Pensi di poter sfuggire alla verità? Neanche salve, per sogno! Salve! Che succede qui? Oh, sia ringraziato il cielo, un poliziotto. Questo svitato mi sta inseguendo! Buongiorno, Harold. Buongiorno, Colin. Come stai? Oh, non ci lamentiamo. Senti, tienilo d'occhio questo. È un po' sciroccato. Cosa? Siamo spacciati, io... ve lo dico! Ma stiamo scherzando? Certo, bene, la polizia la scorterà fino a casa. Oh, meno male, io abito a Kensington, lì sopra, in superficie. Lì sopra? Oh no! No, agli umani non piace la nostra specie. Parli per sé. Io piaccio moltissimo lì sopra. Oh, e a me non piace come ti stai comportando. Guarda che io ti tengo d'occhio, bellezza. E così vorresti arrivare lì sopra, vecchio bucaniere? Sì. C'è una persona qui che potrebbe essere in grado di aiutarti. Potrebbe. Davvero? Un cliente un po' losco è il comandante della Jamie Dodgers. Se riesci a trovarla. Lo so io dov'è! E ricorda, il nome della barca è Jamie Dodger. Grazie di avermi accompagnato fin qui. Di niente. A presto! Chiedo il permesso di salire. Ehi, di bordo? Essere invadente, signor comandante Skipper Cosetto. Ehi, vorrei dire signorina comandante Skipper Cosetta, ciccio. Ups. Che accidenti ci fai tu sulla mia barca? Ho avuto una giornataccia e ho bisogno di aiuto. Mi hanno buttato fuori di casa mia e sciacquanato giù per il gabinetto. Sì, grazie, è troppe informazioni. Ho anch'io i miei problemi, cocco. È qui da qualche parte. Sta giù. E non chiedare. Perché? Da che ci nascondi? Ho detto zitto. Dei ratti mi cercano, vogliono uccidermi. D'accordo, conterrò il mio stupore. Va bene. Muto come un topo. E laggiù! Razza di idiota! Scusami tanto. Allora io vado. Eh? Oh, scusa. Ah! Scusa! Non possiamo farcela scappare! Dai, Gianni, vecchia mia! Non farmi questo scherzo! Eccola, l'abbiamo trovata, finalmente! Io vado a cercare il rubino! Ci penso io, non vi preoccupate! Lasciami andare, mostro dagli occhi rossi! Ora mi arrabbio. Qualunque cosa succeda, giuro che non c'entro niente. Io sono un innocente spettatore. Rita, Rita, Rita. Pensavi di poterci dare il ben servito. Oh! Cos'hai da guardare? Fermo, coraggio, fatti sotto. Ecco. Chi abbiamo qui? Mi pare che abbia detto che si chiama Innocenzo Spettatori. Innocenzo? Veramente no. Allora dimmi, dov'è il rubino, Rita? Il capo lo rivuole indietro. Io non ce l'ho il vostro stupido rubino. E va bene, allora dobbiamo usare le buone o le cattive maniere? Meglio le buone maniere, ti pare, Arpio? E va bene. Guarda nel barattolo. Brava bambina. Vedi, Bianchino, questo è il mio stile. Guarda e impara, figliolo. Guarda. Era lì dentro? Va bene. Rovesciatela da cima a fondo. Ehi, levate quelle zampacce schifose dal mio diario. È qui, da qualche parte, me lo sento nelle budella. È il curry di ieri sera. Io mi sento come te. Ho il sedere come la bandiera del Giappone. Puoi dire a queste persone che io non c'entro niente? Va bene. Anche qui. Allora sentite, state a sentire. Questo gentiluomo non è di queste parti. Grazie. Non avete visto come è vestito elegante? Oh, grazie. E perché? Perché è un ladro internazionale di gioielli. Precisamente. Che cosa? No, no! Mi ha rubato il rubino e se adesso lo mettete giù... No, va bene, ho capito! È il momento di tirare fuori il grande persuasore. Scegli tu, amico mio. Puoi parlare ora o puoi parlare più tardi. Dico bene, persuasore? Sì, con una voce molto più fina. Il grande persuasore è vivo, Arpio. Spiffererei come una pentola a pressione. Bella questa. Io non la conosco neanche. Io non so niente di niente. Attenta, signorina, così ti farai del male. Io so dov'è, io so dov'è. Allora forza, sputa l'osso. Non ti azzardare. Il suo sedere è una mia idea o ha una forma strana? Brutto spione che non sei altro. Quel popò di bottino è nel popò. Ehi, tu, tu, tu, tu. Oh. Wow, grazie bello mio. Il capo sarà molto contento di noi. Sei fritto. E così tu vieni da lì sopra, eh? Io lavoravo in un laboratorio lì sopra. Sì, un grosso progetto su uno shampoo. Ero grigio scuro quando ho cominciato. Già. Però mi ha eliminato la forfora. La grande chiusa. Capo? Ci sei, capo? Siamo tornati. L'ho trovato, capo. Il rubino. L'ho trovato. Beh, tecnicamente Arpio è stato Innocenzo a trovarlo. Veramente, il mio nome è Roddy. In cambio della mia assistenza, pensavo che poteste aiutarmi a venire fuori dal pasticcio in cui mi trovo. Ciao, Rita. Ciao, bellezza. E questo chi è? Il tuo nuovo fidanzato fa il cameriere? Fidanzato? Cameriere? E il tesoro ritorna a me. Ti illudevi forse che ti avrei permesso di rubarmelo? Che cosa? Quella pietra appartiene a mio padre e tu lo sai. Tuo padre? Un mangia spazzatura buono a nulla proprio come sua figlia. Mi scusi, veramente sono stato io a trovare quel rubino, quindi forse potrebbe essere tanto generoso da restituirmi il favore e aiutarmi a tornare a casa. Aiutatemi! Eliminateli entrambi. No, no, no, la prego, voglio solo tornare a casa, Kensington. A Kensington? Nel quartiere reale? Lì sopra? Sì, lì sopra. Evviva! Un uomo di qualità! Finalmente qualcuno che capisce. Vieni, ti mostro la mia collezione privata. So che la troverai delettevole. il mio altare alla bellezza. Sublimi opere d'arte create come tributo alla nostra amatissima famiglia reale. Il busto di Vittoria, modellato in porcellana. Che classe! Molto somigliante, oserei dire. Proprio come se fosse qui. È così liscio al tatto. Andiamoci piano, Leone. Ma vieni, rimettiamo a posto questa gemma, il cuore e la gioia della mia collezione. Questo rubino, caduto dalla fronte dei re dell'antichità, un autentico gioiello della corona. Beh, che ne pensi? È un mendicato! Scappa via! Scusami, tu zitta, mosca. Beh, il suo rubino è senz'altro bello grosso. Indubbiamente. Come avrà fatto a trovarmi qui, nelle viscere del mondo? In questo luogo infimo e oscuro. Già, a proposito, mi piacerebbe vedere tutta la sua collezione. È molto divertente, ma... Divertente? Non ho detto che l'avrei trovata divertente. Ho detto che l'avresti trovata dilettevole, non divertente. Ah, beh, quando ho detto divertente, io intendevo nel senso latino del termine, ovvero che distrae l'animo da pensieri molesti. Distrae. Bel colpo. Oh, il cielo mi aiuti. Freddatelo! Freddate lui e lei. Vediamo se c'è qualcosa di buono in frigorifero. Ex nemici tutti quanti. Una sequela di ladri, imbroglioni e filantropi. Preparatevi a incontrare l'altissimo congelatore. Mi fa sempre sbellicare questa. Chiudete la porta. Azoto liquido ci congelerà all'istante. C'è una tasca nella mia tasca posteriore, prova a prenderla. Nella tasca. Accidenti, freddo. Per questo mi sono messo le muffole. I sicari non usano le muffole. Levatele, mi fai vergognare. Beh, tu non hai problemi, hai le mani piccole. Presa. Non ti diventano fredde. Io non ce l'ho piccole. Invece sì, hai le manine da donna. Saranno anche piccole, ma sono armi letali queste. Hai le mani di tua madre. Forza, avanti, unisci le tue mani. Potevi anche pulirti i piedi. Non dimenarti. Addio, parassiti. Ora, fatemi vedere l'ultima aggiunta alla mia collezione cubista. Cosa? Impossibile! Oi, Kermit! E il tesoro ritorna a me! Brutto ciccione viscido di un pallone gonfiato! Inseguiteli! Perché ti fermi? Non abbiamo un piano? Siete degli abbiamo perché chi? Non li aspetta, aspetta, non puoi volarmi qui! Più veloci, idioti! Stanno scappando! No! Il collettore, no! Abbiamo un piano? Rimettilo a posto! Aspetta, aspetta! Non reggerà tutti e due! Hai ragione! Ciao, ciao! No, no, aspetta! Fermi! Ma... No, non ti rompere! Devo realizzare tanti progetti, vedere tante cose! Questa non era sulla lista! Fai qualcosa! Wow! Tieni le zampe tese quando entri in acqua! Io le ho tenute tese, Arpio. Ai! Oh, santa pace benedetta, è alto. Piuttosto alto, parecchio alto, tanto, tanto, tanto alto. Sì, forte. Ci vediamo. Oh, se ce l'ha fatta lei. Eccoci qua. Atterraggio morbido. No, la palla è mia, invece vai io devo andare a giocare. Rita! Rita! Oh, ma dov'è? Rita! Obiettivo ore 12! Oh, dai! No! Oh. Attento, Bianchino! C'è una buccia di banana! Rita! Più! Laggiù! Sei piuttosto ridicolo adesso, Innocenzo. Tieni le zampe tese. Ma cosa sei? Una specie di topo boomerang? Ridammi il mio rubino. Non ce l'ho il tuo rubino. Ok. Ora ho il tuo rubino. Ti prego, sta attento. Ci tengo moltissimo a quel rubino. È inestimabile. Aspetta. Non è vero. No, col cavolo che non è vero. È vero. No, no, no, guarda, è soltanto vetro. È vero. Falso. Vero. Falso. Vero. Falso. Vero. Falso. Vero. Falso. Vero. Falso. Aspetta, guarda, guarda, guarda. È semplice, sta a vedere. Ecco, hai visto? Un rubino vero non si frantuma. Giusto, probabilmente non avrei dovuto farlo. Ma guarda il lato positivo, ti ho salvato la pelle. Quando il rospo saprà che non vale niente, smetterà di darti la caccia. Roddy St. James ti ha salvato. Santa pazienza! Cerchi di farle un favore, lei ha... Un favore? Quel rubino veniva dalla corona della regina Elisabetta. Era caduto nella fognatura di Buckingham Palace. Allora forse la regina porta gioielli falsi. Stai fermo! Possiamo parlarne un momento? Autentico o no, quel rubino avrebbe cambiato la mia vita! L'osticceria cinese oggi... Sono stato aggredito da una squilibrata! Ha dei colori! Va bene un volo con le mandorle, con calamari! No, con i colori! Niente calamari, vuole riso, fritto o bianco? Fritto? No, aspetti! Vuole calamari o no? Cancelli l'ordinazione. Rita... Senti, vattene via, per favore. Mi dispiace. Ti dispiace? Io e mio padre abbiamo setacciato le fogne per anni. Si è rotto tutte le ossa per recuperare quel rubino. Era la risposta alle nostre preghiere. E ora viene fuori che ero uno stupido falso. Beh... Forse posso farmi perdonare. Non dire stupidaggine. No, no, no, davvero. A casa mia c'è un portagioie pieno di rubini e diamanti, veri però. Quindi non devi far altro che riportarmi a casa, Kensington. E io ti farò diventare più ricca di quanto tu possa mai immaginare. E io come faccio a sapere che non è tutta una montagna di balle? Ma credo che dovrai fidarti di me. Devo essere completamente suonata. E va bene. Ci sto, affare fatto. Vai. Sputa. Sulla tua mano. Dove sono quegli idioti? È così difficile trovare aiuti validi, bambini miei. Sì, è proprio così. Venite fuori, miei adorati. Consolate il vostro vecchio papà. Povero papi. Circondato da ratti schifosi in questo baratro, senza gioie e senza sole. Ma non vi preoccupate, miei ometti. Papino si sbarazzerà di tutti loro, davvero. Presto finiranno motti e sepolti. L'avete trovato? Eh? L'avete trovato? Ah, beh, sì, quasi tutto, capo. Non voglio il rubino, voglio il connettore, quello che mi ha rubato. Rita, quell'immonda creatura. Oh. Senza di quello il mio piano è rovinato. Ah, ok, capo, sì, lasciamo stare il rubino, non c'è più il rubino. Visto, visto, facciamo progressi. Ora siamo i suoi cacciaconnettore. Concentrati, connettocentrici, capo. Tornate in tempo per la finale della Coppa del Mondo. Oh, stupendo, ci guardiamo la partita insieme, capo. Portatemi quel connettore! Tieni le zampe tese. Davvero vuoi fermarti con tutti quei farabutti alle calcagna? Non andremo molto lontano senza una cartina, ti pare? Quella è una casa? Sì, ed è molto pericolosa. Quindi, perché non aspetti qui? Aspetto qui? Ottima idea. Sta attento ai piranha. Tieni, Annie. Anche per te, Patrick. Mimi, levati quel dito dal naso. Fergus, Giorgio, non si morde. È bellissimo. Rita! È tornata Rita! Oh, Rita! Mamma! Oh, mamma! Grazie al cielo, stai bene? Rita! Ciao, papà. Abbracciami, monellaccia! Oh! Oh, mamma, c'è un guardone incantato! Ha cantato! È Tom Jones! Mamma, non è Tom Jones! Lui è solo il mio passeggero. Oh, è molto bello! Quello qui dentro, io non ce lo voglio. La minestra è brutta! È squisita, grazie, mamma! Allora, da quanto tempo sei il ragazzo di Rita? Non è il mio ragazzo. Allora vuoi fare di mia figlia una donna onesta? Papà! Beh, pensavamo a un bel matrimonio in primavera, vero pasticcino? Sentite, mettetevelo bene in testa, lui è... Tom Jones! E così tu ti chiami proprio Roddy, dico bene? Sì, esatto, Roddy St. James. Oh, ma che bel nome. Ciao, Roddy. Ciao, e tu chi saresti, piccolo? Mi chiamano Shocky. E come mai ti chiamano così? Shocky! Sì! Rita, dove la devi portare questo bel giovanotto, eh? Appunto, è per questo che mi servono le tue mappe, papà, perché lui viene da... lì sopra. In cucina. Subito. Oh, cantaci una canzone, Tom! Non dico che non sia rischioso. Sì, ma è impossibile, Rita. Nessuno è mai riuscito a superare le rapide Hyde Park. Se la corrente papà, ti inghiotta... Papà, ci ripagherà. Per l'ultima volta, non abbiamo bisogno dei soldi. Una cucina nuova non sarebbe male. Talking about a little lady. Whoa, whoa, whoa, she's a lady. Talking about la vecchia lady. Hey! Portate bei mutandoni. Grandi mutandoni. Dei grandi mutandoni. Tranquilla, sono io, Liam. Presto, in cucina. Guarda come si muove. Guarda che grandi bigoderia. Non è quello che dice di essere. Il suo vero nome è Innocenzo Spettatori. È un ladro internazionale di gioielli. È una mente superiore. Un supercriminale. Ha fatto arrabbiare il rospo e la sfangata. È un tipo pericoloso, ma anch'io ho il cervello fino. E ho un piano. Ancora? Ma sei bravissimo! Oh, niente di che. E così, vieni da lì sopra. Sì. Ho conosciuto uno di voi una volta. Davvero? Era topo di compagnia di un'anziana signora. Che bello! Ma si sentiva terribilmente solo. Non aveva nessuno con cui parlare. nessuno con cui farsi le coccole. Nessuno da sciocchiare. E quella non è vita, non ti pare? È meglio che lavi questi piatti. Oh, la prego, mi permetta. Oh, che gentiluomo che sei. Perfetto. Quindi io consegno Roddy al rospo e chiedo la ricompensa. Così ce ne stiamo belli e tranquilli per tutta la vita. È questa l'idea? Sì, il rospo pagherà una fortuna per lui. È comunque un delinquente, non facciamo niente di male, giusto? Oh, sfacciato di uno scimmiotto. Non permetterò che un figlio mio si comporti come un cane. Noi Malones non tradiamo mai la parola data. Guarda che ti ruba la barca. Non mi ruba la barca. Ti ruba la barca. Non mi ruba la barca. Ti ha rubato la barca. Cosa? È come Robin Hood al contrario. Lo credevo anch'io. Io credevo che fosse un nostro amico. Emergenza! Levatemi di mezzo! Emergenza! Eccomi, arriva, signor Jones, arrivo! Oh, sposami, signor Jones! Roddy! Ah, piccola intrigante traditrice, non ho bisogno di lei. Che ci vuole a portare una barca? Ecco! Mio caro Sid, ti aspetta una bella sorpresa. Attento! Scusa? Da Sid, salone tatuaggi ad hoc. Sono Roddy, ti ricordi di me? Il maggiordomo? Roddy! Senti tu, se ti trovo ancora lì quando torno a casa... Torni? Torni? E come pensi di fare, Roddy? Cos'è stato? Scusa, devo andare, Roddy. Se trovo una sola cosa fuori posto... Ah! Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Dove si saranno nascosti? Rifletti, rifletti. Per trovare un topo, devi pensare come un topo. Ehi, ragazzi, ho avuto una soffiata. Si stanno dirigendo a ovest, verso Kensington. Bingo! Scarabeo! Basta, Jackie! Alla Ratmobile! Ok, ok. Si può aggiustare? Certo che si può. Beh, ovviamente, ecco. Ah! Un ustione di una certa entità alla mano! Puzzo di carne bruciata, forse devo solo... Ah! Ah! Ah! Che male! Mettiti in moto, brutto misero ammasso di rottami! Razza di inutile, inaffidabile! Scorretto, traditore, ipocrita, disonesto di un buono a nulla! E così sarei io il traditore. Ah, questa sì che è bella. Ho sentito tutto, sì. Tu e la tua famiglia volevate vendermi al rospo. Che cosa? Che testa di gatto. Era il piano di quello stupido di mio fratello. Ma nessuno lo sta a sentire. Ah, quel pezzo l'ho saltato. Tu hai pensato che ti avrei venduto. Quando io stringo un patto, io stringo un patto. Ti vanno a fuoco i capelli. Che cosa? Rita, senti, mi dispiace, ok? Mi sono sbagliato e forse è meglio lasciarci tutto alle spalle. Ok, penso di poterlo lasciare alle spalle. È una reazione veramente eccessiva. Ma su, Rita, non puoi lasciarmi qui su una paperella, in mezzo all'acqua, senza... Hai tutto quello che ti meriti. Intrufolarti di nascosto e origliare le conversazioni degli altri. Non mi sono intrufolato e non ho origliato. Certo. No, dico, non puoi pensare seriamente di mollarmi qui così. Non sei così spietata. Ok, forse lo sei. Senti, se volevi darmi una lezione, considerala imparata. Sono su una paperella e ti imploro. No. Cuor di ghiaccio, Rita, non ti piaccio mai. I miei gioielli, rifiuti pure quelli. Me ne resto qua come un baccalà e tu ne godi. Questo accade a Roddy, a me, Roddy St. James di Kensington. Povero Roddy, guarda in quanti modi Rita sta chiedendo al tuo cuore perdono. Ma come non ti sciogli, cuor di ghiaccio, anche se canto così, anche se canto così. Oh! Ah! Mi hai perdonato? No, avevo il terrore che cantassi un'altra strofa. Rita, non stavo rigliando, te lo giuro. Ah no? Davvero? Ah! Oh! E allora che facevi, Roddy? Beh, veramente, io guardavo te e la tua famiglia e pensavo a quanto sei fortunata. Fortunata? Con te tra i piedi? Il nostro patto è valido. Come no, certo. Senti, io voglio veramente aiutarti di più. Dammi un compito, qualsiasi cosa. Motorista, navigatore. Posso portare la barca se puoi. Prenditela con quelli della tua taglia! Avete sentito il comandante? Vattene! Niente clandestini su questa barca. Molla rosso, razza di appiccicoso! Io sono il comandante e dico vai a sinistra! Sarebbe dritta o babordo, Arpio? Eccoli là! Prendeteli, ragazzi! Rita! Aspettalo, lascialo avvicinare. Ora! Provateci se pensate di essere abbastanza veloci! Reggiti forte, Roddy! Prenditi il connettore! È scappato! Sì! E ora può baciare la sposa. Congratulazioni, viva gli sposi! Guarda dritta, fidalo! Rita, puoi andare più veloce, per favore? Non ce n'è bisogno! Vai, vai, crema viola! Lento, veloce! Fine della corsa, Innocenzo! Vieni qui! Rita, gira a destra! Cosa? Fidati di me! Spero che tu sappia quello che fai! Oh! Ora, butta alla corda! Ok! Bravissimo, Roddy! Urrà! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Non ce l'abbiamo fatta! Oh, c'è speranza di tornare sulla barca! Oh, morta! Grazie! Non c'è di che! Sei sicuro di volerlo usare? Questi affari sono molto pericolosi! Pericolo è il mio secondo nome! Mi pareva che fosse Leslie! Ah. Come va? Ho pensato di fare un salto. Rita, fa qualcosa! Presto, qualsiasi cosa! È l'ora del pulsante rosso! Reggiti forte! No! Qualche ultimo desiderio? Sì! Sì, puoi volare dalla barca urlando come una ragazzina. Cosa? Ah! Oh, cielo! Dici che il capo sarà seccato con noi. Rozzo di competenti mangia formaggio! Li avete lasciati Non avrei dovuto mandare dei roditori a compiere un lavoro da anfibi. Ma dov'è? Perché è sempre in ritardo? Manga! L'erano che... Bonjour. Sei in ritardo, le ranocchio. Elegantemente in ritardo, mio irritante cugino inglese. Non conosco altro modo. Ascolta, Rita e il suo nuovo complice mi hanno rubato un oggetto insostituibile. Non fa niente, capo. Ne abbiamo un altro. Un connettore con un design e una funzione speciale. Lo voglio riavere. E che problema c'è? Te lo riporto io. E quando lo riavrò in mano, il mio piano sarà completo. Spazzare via una volta per tutte la maledizione, la piaga dei... ratti. Perdonami, mio verrucoso cugino inglese, ma questa bizzarra ossessione verso i topi non ti giova affatto. Stai diventando quello che noi francesi chiamiamo... Lesvitat! Forse dimentichi che è stato un topo a cacciarmi dal paradiso. Oh, ti prego, non ricominciamo col diario. Le mie memorie. Il primo volume espone in dettaglio la tragica storia della mia giovinezza. Oh, mon Dieu. Fra tutti gli animali di Buckingham Palace, il giovane principe Carlo preferiva di gran lunga me. Ci dilettavamo giorno dopo giorno in regale abbandono, condividendo il dolce e magico legame che esiste fra bimbo e rospo. Mi viene da vomitare. Eravamo inseparabili finché non arriva lui, quel topo. Mentre il povero bambino non guardava, io fui crudelmente gettato in un turbinio di disperazione. Lo so, lo so. Ti hanno sciacquato giù per il tubo, giusto? Vino inglese, beh. È così buio, così freddo, così terribile. Il mio dolore ti fa ridere. A me fa ridere il dolore di tutti, tranne il mio. Sono francese? Trovami quel connettore! Ranocchiastri! Abbiamo una missione. Niente ci potrà fermare. Partiamo immediatamente! Ma allora la cena? Partiamo fra 5 ore! Oh, amor, amor, amor. È piuttosto appetitoso. Grazie. Sì, non mi sembra male, visto che avevo una mela, 6 uvette e una confezione di riso. Riso? Nel profondo dentro te, quel che si muove, sai cos'è? Altro che riso, sono i vermi che mangi. Ah, ora capisco perché si è spostato quando ci ho messo il sale. Sai, penso che ce la siamo cavata molto bene oggi. Credo che forse ti ho giudicato un po' male. Voglio dire, non sei... È un complimento quello che mi è giunto alle orecchie? Lascia perdere. No, no, no, dillo. Non sei il fighetto inutile, lagnoso, snob, pomposo e deboluccio che pensavo. Ecco, era tanto difficile? È meglio che riposiamo un po' se domani dobbiamo riportarti a casa. Al volo! qualcosa di te, Roddy? Beh, non saprei, non c'è molto da dire. Di me sai tutto, difetti e compagnia bella. Tu non so neanche che cosa fai. Io sono in una boy band. Cosa? Sì, io sono Roddy Posh. Dico sul serio, raccontami della tua vita lì sopra. Amici, famiglia. Ce l'hai una famiglia, no? Oh, ma certo che ce l'ho. Fratelli, sorelle, cugini. Sì, siamo un bel clan. Oh, non puoi immaginare quanto ci divertiamo. Ce ne andiamo al cinema, giochiamo a golf, andiamo a sciare. È veramente una cosa stupenda. Lo credo che vuoi tornare a casa. Già. Insomma, domani avremo entrambi quello che vogliamo. Buonanotte. Buonanotte, Roddy. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Roddy. E non farti più pizzicare. Occhietti! Ci stiamo avvicinando a Kensington. Lega le cose sparse, sarà un percorso accidentato. Sì, signore comandante. Grazie. Di niente. Bonjour. Chi siete? Chi vi ha invitato a bordo? Smammare, smammare! Ah, la piccola ragazzina inglese è un po' aggressiva. Le rannocchiose. Mi piacciono le femmine un po' focose. La pagherai cara, mio piccolo croissant al cioccolato. Ma prima una parola dal nostro sponsor, Marcel. Dovevo immaginarlo. Molto bene, le ranocchio. Onore al merito, bravo. Avanti, Rita. Consegnamelo subito. Che devo consegnare? Questo balletto di bugie deve finire. Adesso ridammi quello che mi hai rubato. Smettila di ballare. Non ce l'ho più. E comunque era un falso. Cosa? Oh, il rubino! È suonato, ma è un parente. Oh, questo è da sbellicarsi. Il rubino era un bello oggettino. Piantala. Ma è una quisquiglia paragonato al mio ineguagliabile connettore. Al connetto che? Il Girati! Il connettore, quello che ora indossi come una cinta. Se vuole solo quello. Aspetta, e a che cosa ti serve, scusa? Oh, lo vedrai, alla finale della Coppa del Mondo oggi pomeriggio. La finale della Coppa del Mondo? Ok, cugino, prendi fiato, lascia fare a me. Riprendiamo il connettore e uccidiamo i roditori. Così noi potremo gustare una colazione decente. Ok, miei prodi, azione! Ci arrendiamo! No, non quella razza di idioti, quella del Kung Fu! Ho un bel piano. Vai, colpisci! Mosca, a ore 12! Oh, porca vacca! Oh, mon Dio! Roddy, schifosi! Ma non finisci! Roddy, le rapide! Pericolo, morte certa! Vanguard! Rita, stiamo per andare giù! Allora fa sorpresa! Au revoir, ma chérie! Toglimi quelle zappacce di dosso! Il trionfo è mio! Voi stupidi inglesi, con il vostro tè al latte e chips and fish, pensavate di poter sconfiggere le ranocchio? Questa è la mia cinta! Brutti roditori! Addio, Johnny, vecchia mia. Tutto bene, tutto bene, tutto a posto, tutto a posto. Prova un po' ad aprire gli occhi. Siamo sopra Kensington. Solo un terrificante volo di 270 metri fra te e il tuo belletto comodo. Allora, dov'è la tua casa? Aspetta, fammi vedere. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Va a sinistra. Così. Ora va a destra. Sì. Ah, è un momento difficile. Ah, certo, perché invece il resto è stata una passeggiata. Ecco, ci siamo. 45, 47, 49. Ora! Beh, ho avuto atterraggi più morbidi. Ce l'abbiamo fatta. Sono a casa. La ciurma della Jammy Dodger è ancora viva! Sì. Rita. Oh, ma certo, che idiota che sono. Oh, la Dodger. Non è colpa tua, Roddy. Bella avventura però, vero? Oh, Rita, mi dispiace tanto. Ma forse so io come tirarti su il morale. Ta-da! Come promesso, ecco i gioielli di Kensington. Un vero rubino con taglio a stella. È assolutamente meraviglioso. E il bello è che è infrangibile. Oh, davvero non ho parole. Pensi che sarà sufficiente per provvedere a tutta la famiglia? E magari questo potrebbe diventare la Jammy Dodger seconda. Beh, penso che sia il momento. Grazie. Del passaggio. Non c'è di che. Roddy? Sì? Non è che avresti il tempo di farmi fare un rapido giro? Ma certo! Mi piacerebbe conoscere la tua famiglia. Ehi là! Ehi là! C'è nessuno in casa? Ti pareva? Quando servono sono tutti fuori, dal primo all'ultimo. Aspetta! E quella che cos'è? Ah, quella? Quella è la mia camera da letto. Ma è una gabbia. No, in realtà non lo è. E perché ha lucchetto e sbarre? Beh, è il mio sistema di sicurezza. Tanto da vedere e così poco tempo per vederlo, andiamo? Roddy, non c'è nessun altro qua su con te. Non è così? è quello? Quello sarebbe mio fratello. Cavolo, che partita! Non è possibile! Gira, segna, con la nuca, abbraccio di gruppo! Oh, ciao! Rita, lui è Rupert. Come? Rupert, lei è Rita. Pensa, non vedeva l'ora di conoscere mio fratello. Effettivamente non c'è un'enorme aria di famiglia. Io ho preso il cervello e, beh, sicuramente anche la bellezza. Ma siamo molto affezionati, vero Rupert? Pazzesco, come vola il tempo quando ci si diverte. Bene, proseguiamo con il tour. Ciao Sid. Ciao Rita. Tuo padre come sta? Sta molto meglio, grazie del pensiero. Rupert! Ma che ti è saltato in mente? Vieni qui, poverino, ma dai! Guarda che razza di faccetta! Hai mai visto niente di più patetico? Fratelli! Il nostro Mister Solitudine al massimo ha un paio di bambole e una piccola ruota per correre nella sua gabbia! Oh, ma è da spaccarsi dalle risate! Che sfigato! Oh, non abbatterti, Roddy. Abbattermi? Guarda questo posto, Rita. Guarda la mia casa. È un palazzo. Posso fare tutto quello che mi pare e quando mi pare. Se permetti altro che abbattermi, non ti sembra? Insomma, a che serve una famiglia? A che mi servono gli amici? Scusami, ma se hai tutto quello che ti serve, sai... Devo proprio andare adesso. Devo occuparmi di una gravissima infestazione. Allora, ti saluto. Addio. Roddy St. James, di Kensington. Soli, sempre più soli, se non abbiamo nessuno da amar. Mancano solo 10 minuti all'intervallo. Che partita straordinaria è stata per l'Inghilterra! Oh, ma è fantastico! E riparte in attacco la Germania. Ma l'azione non porta a nulla. Vieni qui, fratello! Rupert, sento la mancanza del suo rodin rodello. Tieni, prendi un puffa formaggio. Si è infortunato all'estremità del campo. Prendine un altro. Ecco qua. No! Dai, li devi mangiare. Sposta il sedere. Cosa? Spostati! Il gioco è fermo perché una delle dammi un po' di quella roba. Anzi, entrambe le squadre stanno per effettuare un cambio. Un consiglio spassionato, amico. Vacci piano con la bibita. Sul serio, altrimenti non ci arrivi all'intervallo. Che cosa hai detto? Oh, il bagno. Sto aspettando che facciano l'intervallo. Non voglio assolutamente perdermi la partita. L'intervallo? Sta aspettando l'intervallo! Quelle chiuse non reggeranno per sempre, capito? No! Il mio connettore, no! Comunque, a cosa ti serve, scusa? Oh, vedrai! Alla finale della Coppa del Mondo oggi pomeriggio! Intervallo! Intervallo! Ma certo! E questo è il piano del Rospo! Ecco perché gli serve il connettore! Quando tutti andranno in bagno, la città finirà giù nel tubo! Vieni con me! No! Ma come? La partita! E che partita! Oh, brutta caduta per Ray Bowers, il grande centro mediano. Ci vedi bene da lì, Fergus? Sì, grazie, mamma. Ma dove sono i caschi? Qual è il quarterback? Prendi in mano la palla, prendila con la mano! Oh, questi britannici non sanno giocare a football! Godetevi questi ultimi momenti, feccia spregevole! Ho preso Rita, capo! Ho preso Rita! Giù le zampe! Lasciami! Avanzo di laboratorio! Mancato! Oh, Rita! Che pensiero gentile riportarmi il connettore! Bonjour! Ehi! Finalmente! È tutto mio. Prendilo e basta. Che si è fatta la luce! Prego, non mandarmi giù nel tubo, Rotti! Non posso sopravvivere! Mi sono rammollita! Sid, voglio che tu mandi giù me. Io torno là sotto. Torni là sotto? Rita è in grave pericolo. Tutti sono in gravissimo pericolo. Senti, a te piace stare qui? Oh, sì, Rotti, mi piace tanto, tanto. E se ti ci lascio, farai il bravo con Tabitha, la bambina che si prende cura di me? Sarò un pezzo di pane con lei, Rotti! Il miglior topo domestico del mondo! Allora la casa è tutta tua. Che fico! Bene. Accendiamo le bolle. Ho un grande compito che mi aspetta. Agli ordini, signore! Addio, Sid. Addio, Rodnik, sa qualcosa di qualche posto che non mi ricordo? Geronimo! Ed ecco, vedrete il prescelto che giungerà dall'alto! E sarà colui che ci salverà dalla grande inondazione! Davvero desolato. Mancano solo 2 minuti alla fine del primo tempo. Incredibile. Rita. Una finale Rita. Da sogno per l'Inghilterra. Rita. L'Inghilterra sta vincendo contro la Germania per... Rita! La grande apertura. Guadagnano un calcio d'angolo. Finora non ce ne sono stati molti. L'arbitro deve di nuovo fermare il gioco. Calcio di punizione. Rita! Fanatici, fanfetinatevi con i ventilatori inglesi! Migliaia alla morte, dettagli di cronaca! Palloncini! Rita! Rita! Rotti! Scusa, sono stato uno stupido! Avevi ragione su di me! Avevi ragione su tutto! Avrei dovuto ammetterlo, ma avevo paura di non piacerti più! Ti dispiace molto se ne parliamo dopo che mi hai liberata? Ma certo, non c'è tempo. Quando finirà il primo tempo ed i soprattutti andranno in bagno, l'intera città verrà inondata. Lo so, e la mia famiglia è là sotto. Dobbiamo avvisare tutti. Fermateli! Oh cielo! Bianchino! Io ho visto l'occasione e l'ho colta al volo. Volevate far fare la figura dello stolto raspo, Non hai bisogno di noi. Ti credi tanto intelligente, vero? Beh, riderò io a crepapelle quando anche l'ultimo schifosissimo topo sarà spazzato via. Perché allora ripopolerò la città con questi. Schifo. È la gloriosa alba degli anfibi, papi. Per voi questo ed altro, piccolo mio. Mi regali un pony? No. Un cucciolo? Poi ne parliamo. Possiamo parlarne ora? No. Mi regali un cucciolo? Anch'io voglio un cucciolo. No, niente cuccioli. Per favore, papi sta lavorando. Dobbiamo scendere lì sotto e staccare quel connettore. E come facciamo? È impossibile. L'Inghilterra sta vincendo, tutto è possibile. Aiuto! Chiudilo, Bianchino! Andiamo! Stanno scappando! Ciao, capo! Bianchino! Mi manda nel sedere! Aiuta! Arrivo, Arpio! Imbecilli, prendetemi! Ultimo piano, lingerie, arredamento e destino segnato. Devo sempre fare tutto da solo! Ecco il fischio della fine del primo tempo. Faremo la pausa, ma torneremo fra pochi minuti. È troppo tardi per fare qualcosa. Voi e la vostra specie siete spacciati. Ah, sì? Beh, prendici allora, pallone gonfiato verrucoso. Ah! Oh no! La chiusa! Da questa parte, vieni! Rita! Se me ne vado io, voi due venite con me! Non vai, Rodney! Ma certo! Rodney! Non ti muovere! Vieni a prendermi, viscido pallone gonfiato! Rodney, attento! Sì! Le ranocchio! Chiudiamo la faccenda! Sì, lasciami andare! Avvio! Proprio! Rita! Senti la lingua un po' legata? Ciao, ciao! L'onda! L'onda! No, l'onda gigante! Funziona, ti prego, funziona, ti prego! Capirai. Maledetti schifosi! Prima o poi ve la farò pagare cara! Falla finita, cugino! E compra un cucciolo ai tuoi figli! Rita, volevo chiederti se mai costruissi una Jammy Dodger seconda, non è che ti servirebbe un secondo a bordo? Left a good job down in the city, working for the man every night and day. Rolling, rolling on a river, the river. Okay. Bene, Giorma! Come mi piace il lieto fine. Ti sei proprio rammollito. A me piace la tragica fine, piena di violenza. Adesso sei contento, Arpio? Vado? Vai, colpisci. Ci arriveremo molto velocemente! Arrivo, signor John! Arrivo! questa sì che è vita, eh? Roddy, sono tornata! E ti ho portato un nuovo amichetto! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm-hmm, mm-hmm. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style f***ing pops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down.